Storie italiane. I sette corvi. C'era una volta, in un luogo molto lontano, situato tra le alte montagne, una valle verde. La valle era attraversata da un limpido torrente, dove un boscaiolo costruì la sua casa di pietra vicino alla riva. Il boscaiolo era sposato e aveva sette figli e una figlia. Ciao, cara! Ciao, ragazzi! Spesso doveva viaggiare e andare via da casa per lavorare. Sua moglie si trovava in difficoltà nell'accudire i suoi figli. Oh, buon Dio, che tremendi che sono! In realtà la figlia non le causava nessun problema, perché era gentile, carina e disponibile. Ma i ragazzi erano la causa dei suoi problemi, perché erano maleducati, disobbedienti e litigiosi. Non avevano rispetto per la loro madre e lei era molto tormentata a causa loro. Ragazzi, è ora di andare a letto. I letti sono per i vecchi, mamma. Quando il marito tornò a casa molto stanco dopo una settimana di duro lavoro, la povera moglie non riuscì a raccontargli del comportamento poco educato dei suoi figli. Non voleva preoccuparlo ulteriormente. Oh, mio marito è così. È molto stanco. Non posso disturbarlo con la storia dei ragazzi. La donna non si rese conto che così facendo i suoi figli sarebbero solo peggiorati. Di fatto, quando il loro padre non era a casa per punirli, i ragazzi continuavano a sfruttare la situazione per comportarsi male, continuando a essere maleducati, litigiosi e disobbedienti con la loro madre. Ragazzi, dovete smetterla! Fratelli, per favore, ubbidite alla mamma! Stai zitta, tu sei una stupida! La sorella soffriva di più perché amava i suoi fratelli, anche se erano insensibili, ma amava soprattutto sua madre. Essendo la più giovane, tuttavia, nessuno dei fratelli prestava attenzione ai suoi rimproveri. Un giorno, i sette ragazzi finirono in un bel guaio. Nel bosco crebbe un'erba pericolosa che fa gonfiare lo stomaco agli animali. Il boscaiolo aveva sempre raccomandato ai suoi figli di assicurarsi che le loro capre non ne mangiassero mai. Ma i ragazzi riempirono una borsa con l'erba e poi la mescolarono con il cibo per gli animali. Muoio dalla voglia di vedere come le nostre capre si gonfiano! Si gonfieranno e voleranno come dei palloncini! Più tardi, le capre e le mucche si ammalarono e le loro pance si gonfiarono e dolevano e non potevano più stare in piedi. Oh, mamma, guarda! Gli animali sono molto malati! Oh, cosa gli è successo, povere bestie? Non avremo più il latte! Non saremo più in grado di produrre il formaggio! Come sopravviveremo? Fratelli, guardate quanto sono stupidi questi animali! I figli ridevano maliziosamente e non si rendevano conto del male che avevano fatto fino a che la donna, al culmine della sua disperazione, gridò: «Vorrei che foste dei corvi piuttosto che i miei figli!» Quando pronunciò queste parole, una misteriosa nuvola oscurò il sole. Improvvisamente divenne freddo e i ragazzi si trasformarono in sette grandi corvi che volarono via gracchiando. Fratelli! Oh no! Oh buon Dio! Che cosa ho fatto? La donna era così spaventata, si angosciò a tal punto che svenne. Oh mamma! Cosa faccio adesso? Quando suo padre tornò il giorno seguente dal lavoro, scoprì la verità e fu molto turbato. Tuttavia, cercò di confortare sua moglie. Oh, cara, non è colpa tua. I nostri figli erano cattivi e tu hai perso la tua pazienza. Giunse la sera e la casa era piena di tristezza e di disperazione. Passò molto tempo e la bambina divenne più grande. Ricordava ancora i suoi fratelli e raramente sorrideva. Un giorno chiese a sua madre il permesso di andare a cercarli. No, assolutamente, cara. Non posso perdere anche te. Mamma, io li ritroverò, lo sento. Sento che devo andare e che mi stanno aspettando. Lasciami andare, mamma, e dammi la tua benedizione, per favore. Ok, cara. La madre non poté resistere alle richieste della figlia. Così la bambina se ne andò con una borsa di viveri alla ricerca dei suoi fratelli. Camminò per 2 giorni attraverso i boschi, dirigendosi verso le montagne. Oh, fratelli! Dove siete? Le sue provviste stavano per terminare. Molto presto non avrebbe più avuto del cibo. I suoi vestiti erano strappati. Aveva freddo ed era molto stanca. Il terzo giorno all'alba vide una strana casetta coperta dalla nebbia. Qualcuno vive qui! Qualcosa l'attraeva nella casa, anche se aveva un aspetto cupo e poco invitante. Quando fu dentro la casa, trovò un tavolino con 7 ciotole e il suo cuore batteva molto velocemente. Forse aveva trovato quello che stava cercando. Può essere che... Oh, qui ci vivono... Andò avanti e vide c'era una pentola grande sul fuoco, piena di grano e avena. Oh, che buono! Ho tanta fame! La bambina era molto affamata e così versò un po' di cibo in una ciotola e lo mangiò bramosamente. Poi salì al piano di sopra e trovò una cameretta con 7 lettini, ognuno con una coperta di colori diversi. Che bello! 7 coperte colorate! Con le lacrime agli occhi, la bambina si rese conto di avere finalmente trovato i suoi fratelli. Esausta per il viaggio e il trambusto, la bambina si distese su un letto e si addormentò. Riposo e li aspetterò qui. Oh. Più tardi, 7 corvi spalancarono la porta e si sedettero attorno al tavolo della cucina. Qualcuno ha mangiato un po' della nostra zuppa! Ma chi verrebbe qui a mangiare? Siamo condannati a rimanere da soli su queste montagne per sempre. Nessuno verrà mai a cercarci. Quando finirono di mangiare, i corvi si recarono al piano superiore, volarono su per le scale e trovarono la bambina in uno dei loro letti. Guardate, ma questa è, sì! Disse uno dei corvi dopo aver toccato delicatamente la treccia con il becco. Hai ragione! È lei! È nostra sorella! È la nostra sorella! Nostra sorella! Nostra sorella! In quel momento, la bambina aprì gli occhi e quando si vide circondata dai grandi e brutti uccelli, si spaventò. Ma da uno di quei corvi udì una voce gentile. Tu sei nostra sorella? Tu sei nostra sorella? Sei nostra sorella? Sei nostra sorella? La bambina si alzò e aprì le braccia. Fratelli miei, che bello, vi ho trovato! Vi ho trovato! Finalmente siamo di nuovo insieme! I 7 corvi la guardarono tristemente. Non ti spaventiamo o ti disgustiamo? La bambina abbracciò tutti loro. Vi amo moltissimo e anche se vi siete trasformati in corvi, siete ancora i miei fratelli! Quando udirono questo, i corvi si commossero e cominciarono a piangere. Non piangete, vi prego! Ci manca la nostra casa e la famiglia! Perché non tornate a casa con me? Ci piacerebbe molto tornare a casa! Ci piacerebbe molto tornare! Torniamo a casa, dai! Sì, torniamo! Ci dispiace per il nostro comportamento! Come possiamo andare dai nostri genitori? Noi siamo dei corvi! La mamma vi accetterebbe lo stesso! Ne sono certa! Lei continua a piangere e a pensare a voi! Nonostante ciò che abbiamo fatto? Sì! Vi ha perdonati! Non ha perdonato a se stessa la maledizione che vi ha lanciato! Tornate! E sarà felice di vedervi! Tutti quanti! La bambina insistette e convinse i suoi fratelli a tornare a casa con lei. Ok, deciso, andiamo tutti a casa! Sì, evviva! Andiamo, andiamo! La bambina iniziò a camminare giù per la montagna. Non c'è bisogno di camminare su e giù per la montagna, sorellina! Voleremo lì e noi ti trasporteremo con noi. Mentre stavano per andarsene, disse il fratello più giovane: aspetta un attimo, portiamo alla nostra mamma in regalo tutte le pietre scintillanti che abbiamo trovato. Entrò e portò con sé una borsa piena di pietre preziose. Wow! Sono davvero belle! Ti piacciono? Moltissimo! Potrebbero essere preziose, lo sai? Quando nei corvi vediamo qualcosa di scintillante, non possiamo non prendere quell'oggetto che scintilla più di tante altre cose. Sai, sorellina, forse quello è un diamante! Sì, forse! È bellissimo, fratello! Giunsero ad un precipizio. La strada che percorrevano giunse alla fine. All'inizio la bambina si spaventò. Oh, cadrò, fratelli! Non preoccuparti, sorellina! Non ti lasceremo cadere! Non preoccuparti, sorellina! Non ti lasceremo cadere! I sette corvi la presero e la tenevano saldamente. Volarono sani e salvi fino alla meta. Videro la valle, il torrente e la casetta dove erano nati. Il cortile era deserto e quando arrivarono la bambina disse: aspettate qui, vado a chiamare la mamma. Facciamole una sorpresa. Entrò silenziosamente in cucina e vide la povera donna che si appoggiava al tavolo e piangeva. La abbracciò e la baciò dicendo: mammina, sono tornata e ho una grandissima sorpresa per te. Oh, mia cara, cara figlia, sei qui finalmente. Pensavo di averti perso per sempre. La povera donna era così felice e commossa che non sapeva se ridere o piangere. La ragazza le asciugò le lacrime e portò la madre nel cortile. Nel cortile trovò i corvi. I miei poveri figli, mi siete mancati tanto. Mi dispiace di aver pronunciato quella maledizione. Una madre non dovrebbe mai dire cose del genere contro i suoi figli. No, mamma, ce lo siamo meritati. Ci rammarichiamo per tutto ciò che ti abbiamo fatto. Siamo molto dispiaciuti della nostra malvagità. Oh, la mia famiglia è di nuovo insieme. Stavano tutti piangendo ricordando il passato, quando all'improvviso si verificò un altro miracolo. I sette corvi tornarono ad essere umani. Oh, oh signore, fratelli miei, siete tornati come prima. Il padre, che udì delle voci, corse fuori di casa. Grazie a Dio, posso rivedere i miei figli. Padre, siamo così dispiaciuti. Padre, siamo così dispiaciuti. Padre, siamo così dispiaciuti. Padre, siamo così dispiaciuti. Pianse mentre abbracciava i suoi figli e sua figlia. Gli anni passarono e i ragazzi divennero sempre più responsabili. Le pietre che i corvi avevano portato alla loro madre si rivelarono gemme preziose. Dopotutto, quel tesoro permise alla famiglia di vivere una vita migliore.